programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cominciate in modo rilassato naturalmente, ma a far turbinare, a far girare le turbine dei vostri neuroni, perché lo sapete, questo è il nostro appuntamento che è naturalmente piacevole, rilassato, eccetera, eccetera, ma dove dobbiamo capire insieme quali sono le notizie che contano, che sono contate, diciamo, durante questa settimana, i fatti che vi hanno più coinvolti, quelli sui quali avete voglia di esprimere le vostre libere opinioni. È un numero verde che vi dico come sempre sin dall'inizio, lo sapete che siamo insieme tutti i sabati dalle 14 fino alle 15, più o meno alle 15, quindi se volete intervenire, diciamo, fatelo un po' precocemente. 800 24 00 24 numero verde, 800 24 00 24 sapete, numero verde che significa gratuito ma anche ecologico, perché evitate di disperdere tempo, pensieri ed energie nell'ambiente e altrove, invece li convogliate qui direttamente a Non ci sono più le mezze stagioni. Moltissime naturalmente le notizie anche in questa settimana, da sabato scorso fino a questo sabato, quante cose sono successe, inutile dirlo, però come sempre vi voglio fare un brevissimo resumé, e che nessuno, lo dico subito, nessuno mi dica poi durante la trasmissione: ma non hai citato quella cosa lì, ti sei dimenticata quell'altra. È chiaro che si susseguono, se voi guardate, se voi aveste un abbonamento alle agenzie di stampa, si susseguono notizie ogni pochi secondi, tutti i giorni. Immaginate in 24 ore, in un solo giorno, che cosa succede. Quindi vi dirò giusto qualcuna, e poi naturalmente voi avete tutto lo spazio per raccontare quelle che ritenete degne comunque di rilevanza. Naturalmente iniziamo con le buone notizie. Allora, Visco, il governatore della Banca d'Italia, cosa ha detto ieri? No? Tanto per allegrarci, anche il 2013 sarà un anno di recessione, quindi tutti tranquilli. Poi la campagna elettorale, naturalmente in primissimo piano, con delle bordate a destra, a sinistra, al centro, veramente di una vivacità questa campagna elettorale, che tra l'altro, diciamo, ha veramente una ricchezza di incognite rispetto, diciamo, a quando c'erano gli schieramenti bipolarismo classico degli ultimi anni, più o meno, insomma, puro, mica tanto, però abbastanza con due poli ben definiti. Adesso ci sono veramente tante incognite. Naturalmente c'è Monti, quanto porterà la scelta civica di Monti? Si parla di un 15%, insomma, potrebbe essere di più. Che alleanze ci saranno? E qualcuno dice redivivo anche Berlusconi, insomma, che comincia di nuovo a salire. E poi le alleanze PD, Vendola, che peso avranno i due partiti all'interno della stessa coalizione, con chi si alleeranno? E poi i grillini, e poi Ingroia, e poi molti, insomma, veramente, se voi contate che sono stati ammessi circa 170 e più simboli, una varietà, un'offerta politica incredibile, poi a voi giudicare. Quindi per la campagna elettorale. Poi per quanto riguarda Silvio Berlusconi, sapete che sono stati richieste l'interruzione dei tre processi in corso, ma soltanto uno si fermerà, mentre il processo Ruby e il processo Mediaset invece vanno avanti. Poi Fiat, Marchionne ha fatto un po' discutere, dibattere i politici, lui li ha chiamati osceni a un certo punto, perché ha detto che chiede la cassa integrazione per lo stabilimento di Melfi fino al 2014, però dice in 3-4 anni noi possiamo garantire la piena occupazione, speriamo. E poi che altro posso ricordare? Naturalmente degli esteri. In Siria continua il massacro della popolazione, chissà se rimarrà qualcuno vivo in Siria entro poco. E poi questo nuovo fronte di guerra, perché ne avevamo bisogno, in Mali, nell'Africa atlantica, con l'intervento della Francia, perché ci sono gli estremisti islamici che stanno prendendo soprattutto il nord del paese. Capiremo un po' di cosa si tratta. E poi con la ritorsione di Al-Qaeda in Algeria, tutti questi ostaggi rapiti, molti morti, insomma, un gran caos. Rimanendo all'estero, Stati Uniti, finalmente questa decisione di Obama, l'aveva promesso, è al suo secondo mandato, quindi non rischia, visto che possono essere eletti per due mandati di seguito, non rischia di non essere rieletto, può finalmente prendere delle decisioni sulla questione delle armi. Sapete, dopo la strage nella scuola elementare americana, ha varato delle norme contro le armi. Bene, 6 stati del sud hanno già detto: noi non le rispetteremo queste norme. E la lobby delle armi in America, che cosa ha detto? Sarà la battaglia del secolo, forse perché producendo armi non posso che fare battaglie. Comunque, poi L'Aquila, è stata depositata la sentenza della commissione che ha condannato la commissione Grandi Rischi, perché dicono i magistrati poteva salvare vite, non tanto sul prevedere il terremoto, ma perché i componenti della Commissione dei Grandi Rischi sono sottostati a un'operazione mediatica voluta dall'allora capo della Protezione Civile Bertolaso, che aveva detto: questa è un'operazione mediatica, tranquillizziamo tutti, eccetera. Questa è la motivazione. Poi, durante il processo Cucchi per la morte di Stefano Cucchi, naturalmente lo ricordate, i periti hanno detto che non fu avvisato che era a rischio della vita e non gli furono date cure adeguate, quindi la morte era prevedibile. Vedremo come va a finire. Poi una sentenza, quella su Fabrizio Corona, una delle tante, l'ultima, la più pesante, condannato a 5 anni per aver ricattato il calciatore Trezeguet, bene, è sparito. Non trova più nessuno a Milano, la polizia lo insegue. Abbiamo un altro latitante in Italia. Poi ricordatevi che da oggi la patente si adegua alle norme europee. In realtà ci sono dei cambiamenti soprattutto per i motociclisti e i neopatentati, però andatevi a guardare, controllate, mi raccomando. In Francia, Olanda, oltre a intervenire sul fronte del Mali, ha detto: nonostante le proteste, io mi sono preso l'impegno con i francesi ed andrà rispettato sui matrimoni e le adozioni gay. E nel frattempo, grande clamore ha fatto Jodie Foster, grande attrice, con 2 premi Oscar, è stata premiata anche con un premio alla carriera e Golden Globe in questi giorni, e ha ribadito la sua omosessualità con grandi applausi e sorrisi dei suoi colleghi ad Hollywood. Ha anche detto con orgoglio che è una 50enne, ha ringraziato la sua ex compagna di una vita, è stata 20 anni con questa donna, poi si sono lasciate, ma sono rimaste molto amiche, e ha ringraziato anche i suoi figli che erano in platea. Tutto questo mentre in Italia succede tutt'altro, di cui tra pochissimo parleremo, ma direi che anche potremmo raccontarci molto brevemente, prima di sapere chi è l'opinionista estemporaneo di oggi, perché anche questa settimana qualcosa ci dimostra che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere sono un granché. Finisce un'epoca. Il farmaco più venduto nel mondo negli ultimi 15 anni, pensate chi l'ha inventato e brevettato, quanti miliardi può avere fatto. Ebbene, il farmaco più venduto nel mondo negli ultimi 15 anni perde il brevetto, perché dopo un tot di anni, zac, il brevetto cade, e quindi si stanno scatenando tutti attorno a cosa? Al Viagra. Anche in Italia il 22 giugno scade il brevetto. Immaginatevi, tutti vogliono fare i generici, no? Generici non nel senso che fa finta di niente, generici, i farmaci generici, e quindi immaginate che proliferazione ci sarà, quanti nomi fantasiosi, no, ci potrebbero essere. Quindi finisce, diciamo, anche questa epoca, non ci sono più le mezze stagioni, ma ci conferma anche che invece ci sono sempre le mezze stagioni, cioè le cose non cambiano, perché anche questa settimana mi pare 4-5 donne siano state ammazzate. Adesso io non riesco mai a tenere il conto, ci provo, però a Torino un uomo ha ucciso la moglie e la figlia, poi c'è stato un omicidio invece a Pescara, vicino Pescara, Montesilvano. Un uomo preso dalla gelosia cosa ha fatto? Ha aspettato la moglie, ha fatto un agguato in ascensore, l'ha cosparsa di benzina, ha piccato il fuoco ed esploso l'ascensore, sono morti tutti e due, naturalmente Sansone con tutti i filistei. Poi anche all'Aquila un uomo ha ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno. A Treviso un altro uomo invece ha tentato di uccidere la moglie, ha detto fra le varie ragioni e motivazioni, poi la polizia non mi ha lavato la tuta del calcetto, ha cercato prima di strangolarla, poi l'ha chiusa in macchina, anche lui ha cercato di dare fuoco, eccetera. Insomma, diciamo, ecco, un iter sempre molto regolare, ecco, siamo tranquilli, abbiamo dei punti di riferimento molto precisi, e abbiamo anche un punto di riferimento grandioso oggi, naturalmente, come opinionista temporaneo. Signore e signori, Francesco Merlo. Buongiorno, questi tamburi spero che siano ironici. Ti spiazzano un po', no, bisogna dare della solennità, no, a certi momenti, a certe personalità anche, no? Francesco? Sì, certo. Tu, essendo una delle più grandi firme del giornalismo italiano, editorialista di Repubblica, non puoi che essere accolto in questo modo, Francesco. E io subito ti dico, dal primo momento, ho una testa congestionata da mille spunti, da mille input, da mille notizie, quindi vediamo proprio di rispondere pam pam pam pam, così lo so che tu sei un tipo riflessivo, ma ci sono alcune cose, guarda, ti devo sottoporre una serie di cose. Intanto ricordo per le ascoltatrici e gli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni. Devo partire con una cosa già piuttosto impegnativa, Francesco, sei pronto tu? Eccomi qua, sono pronto ad allontanare da me ogni riflessione. Molto bene. Senti, io fra le varie notizie che ho colto in questa settimana, perché mi pare, cerco di seguire un po' a destra, un po' manca quello che succede, a te piace la salsiccia? La salsiccia? Dipende, ci sono quelle siciliane, quelle inglesi, ci sono quelle toscane, hanno sapori molto diversi. Ci sono anche quelle di Norimberga famose che sono venute fuori con l'inchiesta, no? Sui consiglieri della Lombardia, ma te lo chiedo perché? Perché in una famosa rubrica sulla cucina, tra le 3-4 al top, come direbbe qualcuno, al top 10 della classifica delle rubriche di cucina in Italia, che ormai sono ovunque, tu accendi a qualsiasi ora, a qualsiasi canale, si parla di cucina. Io mi sento un po' reietta, diciamo, che so fare giusto le uova alla cocca. E si diceva, ha detto subito, la conduttrice ha esordito col piatto che sta preparando oggi salsiccia, perché la salsiccia piace agli uomini. È una notizia questa, io ho detto ma che la salsiccia piace, cioè che ci fosse anche un gusto di genere, diciamo, rispetto alla salsiccia. Questa è una cosa che ho pensato. Non lo so, la salsiccia è l'insaccato misto, quindi se piace agli uomini vuol dire che gli uomini sono un po' di bocca buona, cioè perché nella salsiccia ci può finire dentro tutto. Di tutto. Anche se io dico la salsiccia, appunto, ma piace un po' a tutti, no? Con quel suo gusto un po' rustico, così un po' grossolano, anche a volte rassicurante. E poi sale e ciccia, se pensiamo un attimo che cos'è la salsiccia, sale e ciccia. Sale e ciccia. Per questo piace agli uomini. Che via, poi energetica. Quindi, ecco, diciamo, no, volevo sapere da te, perché voi vedete che Francesco Merlo è tra gli uomini a cui piace la salsiccia, per questo. Comunque, andando alle altre cose, io che ne ho moltissime appunto da riferirti, da sottoporti, caro Francesco, ci sono tantissime frasi che hanno fatto parecchio pensare in questi giorni. Per esempio Berlusconi dice: Monti ha agito con più poteri che durante il fascismo. Ti risulta, tu che sei uomo di memoria? Monti ha sicuramente avuto molti poteri, perché ha avuto una maggioranza molto grande che non hanno avuto altri, però aveva un compito molto limitato, doveva fare delle cose, ha cercato di farle, spesso gli hanno impedito di farle fino in fondo, comunque ha fatto delle cose sostanzialmente di carattere contabile, cioè è intervenuto per riportare rigore nella finanza, ha restituito un po' di credibilità internazionale dopo i guasti dell'era berlusconiana, e ha fatto questo doveva fare, e non poteva neanche esprimere il proprio pensiero, perché era lì per fare, non per pensare. Adesso lo sta esprimendo parecchio dopo il pensiero, no? Infatti poi sentiremo vari suoi pensieri, intanto i miei si mescolano nella testa e quindi intanto mi impapocchio. C'è una cosa, adesso Pietro Lacorte mi guarda con occhi un po' tesi per dirmi, guarda che c'è la viabilità a proposito di patenti che si rinnovano, però dopo ti voglio fare una domanda su un sai che ormai in televisione è tutto uno show con i leader politici, con vari esponenti politici eccetera, qualcuno più di altri, e io ti voglio parlare tra pochissimo di una scena particolare alla quale ho assistito per caso, perché guardo poco la televisione essendo sempre fuori o al lavoro anche fino a notte, e ho visto una scena in cui c'era Monti su una domanda in particolare che mi ha lasciato abbastanza perplessa. 800 24 00 24, sempre Roberta Giordano con voi. Abbiamo iniziato da poco, questo è il numero per le vostre telefonate. Intanto arrivano tanti messaggi, io non lo do mai il numero degli sms, arrivano comunque per chi lo conosce, poi li leggerò. Visto qualcuno dice: incredibile, non citate Giannino tra le tante offerte. Vi ho detto che non posso ricordarvi tutto, ma naturalmente c'è anche Giannino. 800 24 00 24, sempre Roberta Giordano con voi. Abbiamo iniziato da poco, questo è il numero per le vostre telefonate. Intanto arrivano tanti messaggi, io non lo do mai il numero degli sms, arrivano comunque per chi lo conosce, poi li leggerò. Visto qualcuno dice: incredibile, non citate Giannino tra le tante offerte. Vi ho detto che non posso ricordarmi tutto, ma naturalmente c'è anche Giannino. Francesco Merlo è l'opinionista estemporaneo di oggi, editorialista di Repubblica, al quale, prima di sentire Mario da Cremona, volevo appunto, come anticipavo prima, Francesco, sottoporti questa cosa. Allora, Mario Monti, no? Mario Monti, noi sappiamo, come hai detto tu, insomma, ha riportato credibilità all'Italia, ha svolto un compito difficile, è l'uomo che ha affrontato mille tempeste, è l'uomo che è stato in Europa ben prima di essere il presidente del Consiglio italiano, è quello che ha affrontato veramente delle tempeste incredibili anche nel nostro paese. Sullo scenario internazionale si muove con grande disinvoltura, come abbiamo visto, eppure, Francesco, giorni fa, Sky TG24, mentre lavoravo, era lontana dalla televisione, l'ho visto, ho fatto una corsa a sentire che cosa stava dicendo, era sull'ultima domanda di Ilaria D'Amico, Chi ha chiesto semplicemente, lei che cosa pensa dei matrimoni gay? Ecco, un uomo che veramente ha affrontato di tutto e che impavido e anche con una certa sagacia, un certo umorismo anche inglese, risponde e sta bacchettando Berlusconi ben più di come abbia fatto sinora il centrosinistra. Di fronte a questa domanda io l'ho visto improvvisamente perdersi un po', con lo sguardo un po' vago, si è abbassato sulle sue carte, ha cominciato un pochino a mormorare e a balbettare, e continuava a muovere queste carte prendendo tempo e cercando la risposta, finché ha trovato evidentemente un foglio in cui c'era scritta la risposta e ha cominciato a leggere molto meccanicamente questa cosa. Ora, descriverla senza vederlo è difficile, qualcuno l'avrà visto, ho visto molti interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni su questa cosa, mi ha lasciato un po' così, come un uomo così capace, spavaldo e insomma competente, come mai su una cosa, è sicuro di sé, un uomo poi europeo per antonomasia, su una cosa così è rimasto. Adesso provo a farvi sentire l'audio, ma senza l'immagine non dà molto l'idea, ho cercato di darvela, sentiamo. Per quanto riguarda i matrimoni gay e le unioni di fatto, Presidente Monti, qual è il suo pensiero? Guardi, il mio pensiero è che la famiglia sia sia costituita da un uomo e da una donna. Quindi no ai matrimoni gay? Credo che la famiglia sia fondata sul matrimonio e ritengo necessario che i figli crescano con un padre e con una madre. Quindi per l'unione di fatto e la regolarizzazione? Il Parlamento può certamente trovare delle soluzioni convincenti per regolare altre forme di unioni e convivenze. Nel nostro movimento politico ci sono idee pluralistiche su questo tema, così come nella società e così come negli altri partiti. Che dici, Francesco? Ma dico che goffo e impacciato e anche a tratti persino balbuzente, perché in realtà non è sincero, cioè non sapremo mai come Monti la pensa veramente sull'argomento. Teoricamente dovrebbe essere un uomo che viene fuori dal mondo laico e quindi dovrebbe avere delle posizioni europee, laiche, eccetera, mentre su questo punto è impacciato e prudente, come lo sono quasi tutti i leader politici italiani, perché sono tutti condizionati dalla presenza della Chiesa e quindi temono che in questo modo si espongono, eccetera. Ma è evidente che si tratta di un modo di procedere antico e anche un po' stupido, perché voglio dire, bisogna che in qualche modo chi si rapporta all'Europa, si rapporta al mondo occidentale e ne vuol diventare un campione come Monti in qualche modo fa, insomma, anche gli italiani come tutti gli altri popoli europei vogliono una legge intanto sulle coppie di fatto. Cioè, vietare ai conviventi, alle coppie di fatto, agli omosessuali di siglare intanto un patto civile e quindi di legarsi con un contratto che sia riconosciuto dallo Stato è una soperchieria di una classe dirigente, e questa è la prima cosa che dovrebbe dire un laico, e quindi stabilire una volta per tutte che gli omosessuali hanno il diritto di fare tutto quello che vogliono con il loro corpo, con la loro anima, con i loro soldi, con le loro pensioni, con la loro vita, e che quindi il matrimonio tra omosessuali, ci piaccia o non ci piaccia il matrimonio, il rito classico del matrimonio, è un diritto. Diritti e doveri uguali per tutti, insomma. Tra l'altro, scusi, prego. Altro discorso sono le adozioni, ovviamente. Lì il discorso cambia, perché lì il diritto non è più di chi adotta, ma di chi è adottato. Le adozioni vanno viste come un diritto dei bambini che non hanno padre e madre, quindi non dei bambini che vengono affidati. E qui vabbè, apriremo un altro fronte su cui abbiamo già discusso altre volte. Ma un altro fronte. Ecco, leggevo, la cito perché è una notizia di oggi sul Corriere della Sera, un professore in classe al liceo Foscarini di Venezia ha detto: chi è gay dovrebbe farsi curare, e quindi subito la bufera, insomma, ogni giorno ce n'è una. Mario da Cremona, all'800240024. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Scusate la mia emozione, io sono bisesso. Tu sei bisex? Bisex, sì. Beh. Quando ho sentito... A volte è anche più difficile, vero che è anche più difficile essere bisex? Io quando ho sentito parlare la Jodie Foster con orgoglio dicendo che era omosessuale, io veramente avrei rotto la televisione. Per abbracciarla, immagino. No, per condannarla, perché uno ha i soldi, può permettersi di dire tutto quello che vuole. Come per condannarla? Perché? Sì, per condannarla, perché noi siamo malati. Tu ti ritieni malato? Sì, siamo malati noi. Cioè, cosa vuol dire mettere in piazza che io sono omosessuale? Mi tengo la mia malattia, mi curo. Ma cosa vuol dire anche quell'adozione? Adozione, sì, va bene, ok. Tanto se c'è una coppia di fatto, vanno da un notaio, due uomini che vogliono stare assieme, o due donne, vanno da un notaio, firmano che il mio patrimonio lo lascio a lui e lui me lo lascia a me, come è successo invece che è morto Lucio Dalla, non ha lasciato niente al suo compagno. Questo ne abbiamo parlato. Mario, scusami, Pietro, lascia pure. Se tu ti ritieni malato, ma ti stai facendo curare, Mario? Sì, cerco di farmi curare, però ogni tanto, purtroppo, come succede, cioè come se ci fosse un diavolo che ti porta all'estremo, perché questa malattia ti porta all'estremo a provare qualcosa molto diverso. Mario, scusa, quanti anni hai, se posso chiedertelo? Io? 47. 47. Tu sei un uomo della modernità, insomma, diciamo, no? 47 sì, anni sì, sì, sì. E ancora io essere giovane. Io non ho niente contro l'omosessuale, che vivono assieme, che fanno adozioni. Ce l'hai a con me te mi stesso. Dà fastidio. No, a me dà fastidio che la mettono in piazza, come hanno fatto quella pubblicità tanto tempo fa, Leo Gullotta, Checchi Pavone, dicendo io sono culattone. Perché Checchi Pavone c'è è proprio Checchi Pavone. Però, Mario, cosa vuol dire mettere in piazza? Io sono omosessuale. Mario, scusa Mario, ma due persone che si baciano di sesso diverso in mezzo alla strada, lo mettono in piazza il loro amore o no? E quelli che si tengono per mano, donna e uomo, per strada, lo mettono in piazza o no? Probabilmente è come l'orgoglio nero, no? L'orgoglio nero. Sì, ma questo orgoglio, ma cosa vuol dire dimostrare due uomini che si vogliono baciare in piazza? Ma vanno in casa, si baciano. Cosa vuol dire? Fanno quello che non voglio dietro le loro mura. Come Mario, senti, scusa Mario, ma tu stai andando da uno psicologo o una psicologa? C'è un centro dove... Ah, c'è proprio un centro che cura gli omosessuali, dove? È vicino a Cremona, non posso divulgare determinate cose. No, magari a qualcuno potrebbe essere utile. Si va da un medico e dove vengono indirizzati dai centri, appunto centri di psicologi dove si può... Centri di psicologi dove curano l'omosessualità, questa malattia, insomma. Sì. Sì. Interessante questa cosa. A Cremona, e ce ne sono anche altrove. Sì, in zona di Cremona. Dico zona di Cremona, ma è un'altra zona che non voglio, perché dato che mi conoscono sono una persona... Ma non c'è niente di male, se ritieni che anche altri debbano essere aiutati per questa malattia grave, no? Sì, ma si sanno, tutti dicono, per un attimo fa qualcuno ha detto che siamo malati. Chi l'ha detto? Prima non so. Ah, questo professore, il mio ospite, il professore del liceo Foscarini di Venezia. È una malattia, per esempio la bisessualità non è come l'omosessualità che si sente attratto da un uomo. E, anche da una donna, che, Esatto, sì. La bisessualità invece si è attratto sia dall'uomo che dalla donna. Sai che varietà nella vita, via, un po' d'allegria, sì, no, Mario, non essere così depresso. Sì, ma sono triste, anzi, io infatti se ho telefonato ho dovuto trovare anche un coraggio per telefonare. Mario, trova il coraggio di accettare te stesso come sei, no? Sì, ma io mi accetto me stesso, intendiamoci, non è che non mi accetto, però mi ha dato fastidio che tutto questo accanirsi dell'omosessualità, di pari diritti, ma quando vanno da un notaio i pari diritti li hanno tutti. Non è proprio si così salvano. Mario, se si finisce in ospedale uno non può assistere l'altro, perché cioè, è una questione più complessa, ti assicuro Mario. Qua a Cremona c'erano due ragazzi omosessuali che il suo amico era là vicino, anzi e la gente ricordatevi bene, la gente non condanna nessuno. La gente e i media che condannano. Appunto, Mario, fammi questo favore. Tu prova, se ritieni di doverti curare, poi richiamami tra qualche tempo e fammi sapere com'è andata, va bene? Io intanto ti ringrazio. Ciao. Grazie, Mario. Buona giornata. Ciao, ancora. Anche salve, a te. Salve. Francesco, tu prima del prossimo intervento vuoi dire qualcosa, Francesco? Una sola cosa che cioè a Mario vorrei dire una sola cosa, che lui ha trovato il coraggio di telefonare e di dirci che è un omosessuale, quindi ha ammesso, come dice lui, dice bisessuale, la sua omosessualità, noi gliene siamo grati perché ci ha dato una testimonianza in più. Insomma, è una contraddizione in sé. Sì. Cioè, da un lato vuole che l'omosessualità rimanga solo privata, e dall'altro telefona una trasmissione radio molto ascoltata, molto, che dice moltissimo di essere un omosessuale. Ha fatto bene a dircelo, insomma, e quindi si è contraddetto e abbiamo notato questa contraddizione, che è conflittuale dentro di sé. Ha dimostrato che, insomma, ha dimostrato di sbagliare a voler distruggere la televisione per rabbia quando sente Jodie Foster che racconta al mondo di essere un omosessuale. Anche perché poi la televisione costa. Lui ha fatto esattamente quello che ha fatto Jodie Foster. Senti, poi gran bella donna Jodie Foster. Algeria, i media dicono che i rapitori sono pronti a farsi esplodere. Continua la questione di questa situazione così difficile in Algeria. Poi con Francesco Merlo, che tra l'altro è stato per anni anche a Parigi e in Francia, parleremo anche del Mali, di questo intervento. Però prima Luigi da Padova all'800 24 0024. Luigi. Ciao Roberta. Ciao. Volevo intervenire sulla questione di quanto ha detto Monti a proposito dei matrimoni gay, il fatto che sia contrario, e anche quanto ho sentito poco fa su Radio 3, hanno dato la notizia che il Papa ha ribadito che l'unione matrimoniale deve essere solo tra un uomo e una donna, facendo anche riferimento al fatto che esiste questa ideologia neopositivista, relativista, che, come dire, sconvolge un po' le menti della gente, e quindi il buon cristiano dovrebbe cercare di combattere questo tipo di ideologia. E io sono cattolico, sono omosessuale, vivo con il mio compagno, e devo, anche contraddicendo quello che diceva prima Mario, sono tante le persone che, pur essendo cattoliche e pur essendo omosessuali, desiderano, come dire, vivere alla luce del sole, certo, il loro affetto. Quindi il fatto di poter andare da un notaio per dire quello che potrebbe, cioè per fare un testamento, per cercare di sistemare le questioni di carattere economico-finanziario, sì, certo, questo è possibile, però con una istituzione come potrebbe essere appunto il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, è sufficiente fare una firma inizialmente, tutto il resto, come succede anche per gli eterosessuali, avviene, come dire, automaticamente. Quindi non solo, ma c'è anche la rilevanza di carattere sociale, cioè due persone che manifestano pubblicamente il loro volersi bene sono, come dire, un punto a favore per l'intera collettività. Certo, certo, certo. E poi tra l'altro si ha bisogno tutti, qualsiasi identità si abbia, di essere riconosciuti socialmente, di avere una propria identità, di essere approvati, ci mancherebbe, per dire io esisto, anch'io e gli altri, sì, lo sanno, certo, e approvano. Certo. No? Ma infatti io non capisco, anche da cattolico, l'atteggiamento della gerarchia cattolica ecclesiastica che, come dire, dà contro una ideologia quando, come dire, la combatte attraverso un'altra ideologia. Cioè, Luigi, il discorso sì, no, ma è chiaro, è lungo. Poi comunque il mondo cattolico, a parte le gerarchie ecclesiastiche, quelle molto in alto, per il resto è molto composito e anche più aperto di quanto si possa pensare. Luigi, ti ringrazio. Sempre Roberto Giordano con voi qui a Non ci sono più le mezze stagioni, con le vostre libere opinioni sui fatti della settimana. Opinionista estemporaneo di oggi è l'editorialista di Repubblica, Francesco Merlo. Il numero verde per voi è 800 24 0024. Tra poco sentiremo Beniamino da Palermo. Però volevo sottoporti velocemente due o tre cose, Francesco, perché poi abbiamo questo collegamento, veramente questa, sapete, è l'unica trasmissione in tutto il mondo che ha un collegamento anche extraplanetario. E volevo chiederti, sai che Pannella, Marco Pannella, in questi giorni ha concluso un accordo, un'alleanza con Storace, no? Che, della destra, che è candidato come governatore del Lazio. La Bonino si è ribellata, perché dice come una storia decenni insomma di vera passione libertaria, laica, eccetera eccetera, che fai con la destra? Effettivamente un po' me lo sono chiesta anch'io, insomma, nel senso, è naturalmente legittimo, ma trovo dei valori che cozzano completamente gli uni con gli altri. Che è successo? Il digiuno a Pannella che ha fatto qualche effetto? No, Pannella è il kamikaze civile italiano ed è una figura unica nell'Occidente avanzato, quindi teniamocelo caro e non diamo colpe all'età, perché non ne ha nessuno. No, al digiuno io, non all'età. Sa quello che dici. No, voglio dire, detto questo, si può ovviamente non essere d'accordo, io non lo sono, con quello che Pannella propone, ma sempre rispettando Pannella. Pannella ha un'idea della politica radicale, che è quella dell'ospitalità. Lui ha chiesto e l'ha fatto anche in passato l'ospitalità, e tutti sanno che dovunque Pannella poi va come ospite, poi porta rompe dei problemi, scatole, dei guai. Questa idea qui, che è un'idea che è stata applicata altre volte, adesso applicata a Storace suona un po' estremista, effettivamente, suona un po', comincia a stridere con la casa in cui viene ospitato, perché Storace non è più l'uomo di destra un po' pazzoide come in altre occasioni si è presentato, ma fonda la sua campagna elettorale sui valori di patria, Dio e famiglia, che sono quanto di più lontano si possa immaginare. Appunto. Con il mondo laico di Pannella, e quindi il Partito Radicale si è spaccato e poi pare che Pannella prevalga. A me dispiace, io preferisco in questo caso le posizioni di Emma Bonino, che sono delle posizioni che sappiamo che lei ha espresso nel mondo radicale, e sono in posizioni in contrasto con quello che Pannella dice, però Emma Bonino non parla, perché appunto ha in Pannella il fratello, il padre, l'amico, la testa, il cuore, e quindi preferisce evitare. Senti, su questa cosa c'è tutto questo impasto in questa vicenda di Pannella. Prima di sentire Beniamino e di fare questo collegamento, che tra poco è pronto il ponte satellitare, diciamo, Francesco, io ti pongo un'ipotesi assolutamente fantascientifica, lo dico già, lo premetto, è assolutamente fantascientifica, che mi è venuta in mente. Allora, mi sembra, ma sicuramente sbaglierò, mi sembra che Ambrosoli, candidato del PD alla Regione Lombardia, come governatore della Regione Lombardia, sia un po' poco, possiamo dire in parole semplici, banali, pubblicizzato, ecco, come se il PD non ci tenesse più di tanto a spingere. Allora io ho pensato, siccome in questi giorni Maroni, il segretario della Lega, ha detto: io alla Presidenza della Repubblica ci vedrei bene un'amica che non è del mio schieramento, ma che è una persona che stimo, Anna Finocchiaro. È possibile che questo sia uno scambio, nel senso, noi vi permettiamo di mettere qualcuno del PD alla Presidenza della Repubblica, però noi ci prendiamo la Lombardia? È possibile un accordo così dietro le quinte tra Lega? No, non è assolutamente totale. È una stupidaggine. È una stupidaggine, è mia. Una stupidaggine è di mia. Maroni. di Maroni, quella di Anna Finocchiaro. Una eco. Ma no, ma comunque di Anna Finocchiaro già si era parlato. No, non mi pare proprio, insomma. Va bene, tranchant molto bene. Penso lontanamente che ci possa essere un'idea di questo genere, intanto perché il Quirinale è una cosa ancora lontana, e quindi tutto ciò che di Quirinale viene detto adesso serve solo per la campagna elettorale, non è una realtà, non mi sembra che... E poi Maroni non è titolare di nulla, intanto non è titolare di una vittoria, non è titolare di una... ognuno fa le proprie ipotesi, no? Al momento ognuno fa le proprie ipotesi. L'ipotesi, non si fa un patto di scambio con una ipotesi così vaga, no? Cioè, no, ma il patto di scambio l'ho immaginato io, Maroni, lui ha detto: io proporrei Anna Finocchiaro. Adesso sentiamo all'800 24 00 24, Beniamino da Palermo. Pronto? Beniamino, ci siamo. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Ecco, buonasera. No, io volevo dire soltanto che intanto non ho nulla contro l'omosessualità, nel senso che non mi crea problemi assolutamente. Però io mi dà un po' fastidio, vedo un po' di, come dire, così l'emozione, vittimismo. Pronto? Sì, no, bene, lo sto ascoltando. Nel senso che comunque, io ricordo, se ricordo bene, sotto il governo Prodi si parlò già di Pax, sì? Per le unioni civili. Sì, anzi, l'aveva detto nel suo programma, dice, questo è uno dei miei primi punti del programma, quando si doveva insediare. Sì, Prodi, sì, però io dico, il problema del riconoscimento delle coppie omosessuali, secondo me, è semplicemente il fatto che loro vogliono accedere direttamente alle adozioni. Alle? Adozioni. Adozioni. No, non è questo. Guarda, questo è no, un altro, sì, uno dei tanti temi. Io ero convivente allora, ricordo. Sono etero, ho figli, non è questo il problema. A parte che non basta essere conviventi per accedere alle adozioni, neanche per le coppie eterosessuali. No, vogliono le unioni civili come mezzo per arrivare alle adozioni. No, cioè, secondo me il limite al riconoscimento delle coppie omosessuali come civilmente, diciamo, è semplicemente quello, perché dietro l'unione, il matrimonio omosessuale, ci sarebbe la richiesta loro di accedere alle adozioni. No, Beniamino, no, questa cosa, questo automatismo assolutamente ti posso dire non c'è, ci sono ben altre priorità prima, poi non tutti vogliono i figli, per carità, ci sono anche persone eterosessuali che hanno la possibilità di fare figli e non ne vogliono sapere, mi sembra anche legittimo, perché e non li vogliono adottare, così anche le coppie omosessuali. Comunque adesso abbiamo questo collegamento che non possiamo assolutamente perdere con un altro pianeta, prego. Riflessioni da Marte. Quassù da Marte questa settimana. Cos'è questa roba? Ma questo è il robot della NASA, quel benedetto Curiosity. Lui e la sua curiosità è qui a perforare la roccia marziana. L'avete sentito in questi giorni col suo trapano? Perché vuole carpire i segreti dell'epoca in cui sul pianeta rosso scorreva l'acqua. Che ve ne importa dell'acqua che non c'è più? Pensate all'acqua vostra, non farla finire. Pensate ai casi vostri, che ne avete già abbastanza sulla vostra terra. Lasciatemi almeno. Mi lasciate fare sto collegamento col globo terracqueo, per favore. Ecco, Curiosity, continua dopo. Stavo dicendo, non si può stare tranquilli nemmeno a distanza di migliaia di chilometri dal vostro pianeta. Dicevo, da quassù da Marte, già la scorsa volta, puntando il telescopio verso la penisola italica, ci si era presa compassione di una povera figlia di NN, la derelitta Immacolata Maurticante, immacolata perché concepita probabilmente grazie allo Spirito Santo, Immacolata Maurticante, anche detta impopolare misura utile, per gli amici semplicemente IMU. E si era detto che nessuno ne aveva neanche sotto minaccia voluto riconoscere la paternità e che tutti, come padri assai poco amorosi e imbarazzati da una figlia che non riscuote consensi praticamente da parte di nessuno, le vogliono fare il lifting, ognuno a modo suo. Ebbene, si apprende, forse per par condicio e ancora più per parità di genere e di opportunità, che oltre a una figlia di NN fa parlare molto di sé ultimamente anche un figlio di NN, Reddy per gli amici, anche se praticamente non ha nessuno di amico, più ufficialmente riconosciuto come Redditometro. Non c'è stato verso neanche per lui, povero tapino, di capire chi ne sia il padrino. È figlio tuo, no, l'hai generato tu, no, sei stato tu a volerlo. E anche qui appurato che, seppur giunto a sua volta sulla Terra a bordo di un meteorite come IMU, ormai c'è, sono stati annunciati vari lifting per renderlo, diciamo così, meno repellente. Alcuni sospetti padri sono tuttavia stati interrogati su questi figliuoli disconosciuti. Senta, le ricordano qualcosa nomi come IMU e Redditometro? Mi ricorda una cosa sola, la fiaba del pifferaio di Hamlin. E lei che ne pensa di chi vuole attribuirle questa paternità? Probabilmente vuole tassarmi anche il piffero. E lei invece cosa pensa che il vero padre di IMU e Redditometro abbia che lei invece non ha? Sono i capelli, evidente. Ognuno cerca di svicolare. Ma indovinate un po'? I giornali di gossip già mormorano di un altro figlio illegittimo in circolazione. Sono prolifici questi padri ignoti, eh? Si chiamerebbe Tares, quasi come una divinità greca, è Tares, anche se sembra che abbia a che fare con la monnezza. E per ogni famiglia si preannuncia Tares peserà ben più di IMU. E in questo caso di chi è mai la paternità? Gli inquirenti, come a volte accade, brancolano nel buio nell'inchiesta che si intitola Chi ha imposto l'imposta? Torniamo subito con i piedi per terra senza trapani. C'è Giuseppe d'Alessandria all'800240024. Caro Pronto? Giuseppe. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno a te, Giuseppe. Allora, innanzitutto grazie per potermi far partecipare. Io volevo proporre un distinguo che mi sembra molto importante. Sì. E voglio fare un paragone velocemente. Se chi nasce con un handicap se lo accetta, dal punto di vista psicologico, non è che per questo lui non debba fare più nulla per emendarsi da questo handicap. Da questo punto di vista io ritengo che il signore che ha partecipato dichiarando la sua omosessualità non possa essere, come dire, ritenuto contraddittorio, nella misura in cui ha fatto la stessa cosa di Jodie Foster, perché Jodie Foster ha fatto quello che ha fatto nel Golden Globe in una trasmissione dove non si parlava affatto di omosessualità, mentre il signore sarebbe stato disonestamente intellettuale se avesse parlato di malattia nei confronti degli omosessuali e poi non avesse detto che lui lo è, si fa curare, quindi lui ha dovuto farlo, tra virgolette. Mi sembra un distinguo che gli altri radioascoltatori, come dire, debbano in qualche modo fare, dovreste, a mio avviso, senza assolutamente voler sottintendere rimproveri, fare anche voi, però. Giuseppe, ma secondo te è una malattia comunque l'omosessualità? No, io non lo so, nel senso che mi sto facendo delle domande da questo punto di vista e non ne sono sicuro, no? Non ritengo però, allora, diciamo che per quanto la conclusione provvisoria alla quale sono pervenuto fino adesso è che, come ce ne sono tante altre, è un'aberrazione della natura. Che un'aberrazione. Tu hai notato che hanno i piedi palmati alcuni, eh? No. Un pochino sì. Se tu li guardi un pochino sì, No, io non li guardo, con quella. È perché non vedi senza scarpe. Mi è capitato. Per la carità, chiaramente voi siete di parere differente e, come dire, siete conduttore della trasmissione, quindi potete tranquillamente. No, ma anche tu puoi tranquillamente. Ma io sono osservatrice, io li osservo i piedi ogni tanto, sai, un po' di feticismo. Giuseppe, ti ringrazio. Ma non hanno i piedi palmati, lo ammetto. Non hanno i piedi palmati. Qualcuno c'ha i piedi palmati, qualcuno c'ha qualche altro difetto, sicuramente, qualche aberrazione. Eccoci qui in corsa, come al solito, nell'ultimo blocco. Chiedo poi anche a Francesco Merlo di essere estremamente sintetico nelle sue risposte. Tra l'altro, c'è sempre la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, usatela, perché dice anche il cardinale Seppe, il cardinale di Napoli, dice Crescenzo Seppe: se Gesù nascesse oggi sarebbe sicuramente su Facebook, quindi abbiate pazienza, cioè più di così è lì la pagina di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi Bersani ci sta ascoltando, è incredibile, questa è una notizia proprio che vi do in esclusiva, in anteprima, perché proprio adesso è uscita l'agenzia ANSA in cui Bersani dice: sono per le unioni civili come in Germania. Ha sentito la trasmissione, quindi dà la sua risposta. Ma sentiamo, abbiamo il nostro appuntamento, sì, tra poco voglio chiedere anche a Francesco Merlo che ne pensa in una parola della guerra del Mali e del referendum sull'IVA, però veramente in una parola, perché adesso abbiamo invece il nostro Don, che sarà brevissimo anche lui, il nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, a te la parola. Ciao Roberta, ciao. Oggi non so se avete sentito che il Papa ha riaffermato il matrimonio come espressione di fedele e feconda alleanza tra uomo e donna. Lo diceva un ascoltatore, sì. Esatto, è uscito proprio oggi la notizia. Ecco, io farei una sola domanda al Papa e a tutti quelli che sono nel suo entourage. Potrebbe dare una spiegazione come mai questa feconda alleanza tra uomo e donna, il matrimonio etero, provoca morti femminili alle donne e nessuno ne parla? Se è così santo, se è così perfetto questa unione tra uomo e donna, si interroghi qual è il problema. Probabilmente tra due omosessuali fino ad ora non c'è questa violenza. Grazie. E questo è Don Severino che ci lascia con i suoi punti interrogativi. E adesso subito corriamo verso la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale, Valeria, io sottoporrei come parola tipo redditometro, potrebbe essere? Sì, come no, può essere, perché è una parola molto nominata in questo periodo. Molto bistrattata, sì. È molto nominata e anche molto criticata. Però la parola non è del tutto nuovo, perché è nata nel 1983 e sappiamo per indicare che cosa, cioè il modo, lo strumento fiscale usato per calcolare induttivamente sulla base del tenore di vita e dei beni il reddito dei contribuenti a prescindere dal reddito dichiarato. Ora, contro questa parola ci sono molte perplessità e in genere gli italiani dicono che è una brutta parola. In realtà la parola è formata perfettamente dal punto di vista della formazione delle parole e non si capisce perché una parola come termometro sia bella e invece redditometro sia considerata brutta, visto che è formata da due parti, reddito e quel metro, dal latino metrum, che significa misura. Tra l'altro, sempre in epoca recente sono nate nominate molte altre parole di questo genere, che hanno anche un po' una componente, alcune vagamente scherzosa, penso al sorpassometro, al qualche anno fa al tovagliometro per calcolare le dimensioni degli spazi all'aperto dei ristoranti, l'obesometro o addirittura il panciometro. Allora, queste sono invenzioni giornalistiche brillanti. Il redditometro non è un'invenzione giornalistica scherzosa, ma serve davvero a indicare uno strumento che altrimenti sarebbe difficile denominare. Allora sorge il dubbio, e qui chiudo, sì, ma che cos'è che non piace? La parola o quello che c'è dietro? Dal concetto molti si sentirebbero perseguitati? Grazie Caravaliere della Valle, sappiamo un po' la risposta, c'è una domanda e retorica. Tina da Torino, tu sai essere proprio in due secondi sintetica, proprio sinteticissima. Tina, perdonami. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno a te. A proposito del redditometro, no? Io ho un figlio disoccupato da 4 anni, da quando ho chiuso la partita IVA, altro che disperato sempre, il fatto che sono disperata anch'io, e quindi io dal mio stipendio, che già pago il mutuo, e mi sono fatto un bel per pagare le tasse di mio figlio, e quando mio figlio mi dice che non ne so perché è un bambino di 10 anni, no? E io cosa faccio? Prendo dei soldi e glieli do. Come li giustifico io? Cosa mi, non è che mi può fare la fattura. Tina, è un gran caos effettivamente, poi bisogna capire, qualcuno ha scritto anche sul Corriere i misteri del redditometro, anche perché è una cosa complicata, dovevamo semplificare in Italia, c'era anche un ministero tempo fa. Tina, ti prego di chiamare la prossima volta, perché adesso siamo in corsa con Francesco Merlo. Francesco, a te prego veramente di dare delle risposte istantanee. Berlusconi, secondo te si può accontentare di fare il ministro dell'economia? Sintetico, proprio, zac. No. Molto sintetico su questo. Invece, e un'altra cosa che ti volevo chiedere, Monti ha detto, Vendola dice a noi conservatori, ma con quello che ha detto sui matrimoni gay, quindi, che vuol dire conservatori in Italia? Non si capisce più chi sono i conservatori. Conservatori non vuol dire niente in Italia, ecco. Perché viene usato conservatori, viene usato moderato, cioè sono, è un'altra di quelle parole che non indicano la cosa che vorrebbero indicare come redditometro. Che ne pensi del referendum sull'Ilva? Sai che chiederanno ai cittadini, non so se aprile mi sembra, vogliono chiudere o non chiudere lo stabilimento, questa è una bella partita tra lavoro, salute e una serie di cose. Ne parleremo un'altra Penso volta? Penso che non è faccenda... Non sì. è una faccenda che debba essere lasciata a un referendum. A un referendum. Non è domanda del referendum. Per chiudere. È troppo. Per chiudere. No, prego. Sì, no, ho letto che c'è una ricerca inglese secondo la quale i paesi in cui si consuma più latte sono anche quelli che hanno un numero maggiore di premi Nobel, come per esempio la Svezia. Tu sei uno che prima ti ho chiesto all'inizio se mangi le salsicce, lo bevi il latte? Io lo bevo il latte, sì. Ah, io invece per niente. Mi sembra una stupidaggine tipica dei sondaggi. Forse anche a me, speriamo. Perché a me non piacciono neanche i latticini. Caro Francesco Berlo, io ti abbraccio, ti ringrazio e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.